passo avanti, moderna illuminata dal futuro. Velo di abiti alla moda su macchine e volanti, e uomini che un sogno ha vomitato, sul ciglio di un pensiero.